Sarò molto molto breve perché sono qua in sostituzione della professoressa Mariuccia Salvati che oggi aveva un problema di salute non gravissimo ma insomma tale da impedirgli di partecipare a questo nostro incontro. Quindi sarò veramente brevissima. Volevo solo intanto dare il benvenuto ai nostri due relatori, che sono appunto Rita Fulco e Giancarlo Gaeta, e sono molto lieta di avere due specialisti su Simone Weil, che è una pensatrice molto scomoda, no? Che non ha mai, dietro alla quale non si sono mai aggregate delle schiere di fanatici entusiasti, ha sempre avuto un ascolto molto ben selezionato, perché è la sua vita, come insomma è molto facile documentarsi sulla sua, sugli avvenimenti esterni della sua vita, sono contraddistinti da grandi svolte e grandi cambiamenti anche sia di spirito che di umore, che di, quindi è una pensatrice davvero scomoda Simone Weil, cioè che non è fatta per suscitare entusiasmi fanatici, perché non è, è una cattolica, nasce ebrea ma diventa cattolica, ma non è una cattolica che sposa con militante entusiasmo le posizioni della Chiesa Cattolica, è una, è una sostenitrice dei diritti dei deboli, degli spossessati, degli ultimi, no? Della società. Però è estremamente critica nei confronti delle posizioni che ufficialmente sono schierate dalla parte dei deboli, no? Perché è molto critica nei confronti del comunismo di tipo sovietico, nei confronti di Stalin, è molto molto critica anche nei confronti addirittura di Karl Marx, che pure è un pensatore a cui lei dedica molti pensieri. Ed è una pensatrice davvero molto, molto che dà da pensare, da lavorare sul suo pensiero, perché non sembra sempre che sfugga ai tentativi di sistemarla in una qualche casella. Per esempio, lei parte per la Spagna durante la guerra civile spagnola, ma rimane pochissimo tempo perché immediatamente capisce che quello che è in gioco è qualcosa di diverso da quello che lei si aspettava, rispetto appunto alla rivolta degli oppressi, rispetto all'esercito, ai franchisti e così via, ma che c'erano in gioco gli interessi appunto della Russia di stalinista da un lato, insomma c'erano in gioco altri interessi che suscitavano molta diffidenza. Però il suo soggiorno in Spagna ha un guadagno molto interessante, perché incontra Maria Zambrano, che è a sua volta una delle maggiori pensatrici, anche lei insomma non sufficientemente riconosciuta, del Novecento europeo. E le due pensatrici così scomode, così a parte, appunto, si incontrano e si in qualche modo riescono a suggerirsi vicendevolmente degli spunti molto interessanti di teoretici e storici. No, quello che a noi è sembrato molto importante, e per questo ci abbiamo tenuto a riproporre una riflessione, a dedicare un'intera seduta della scuola a questa pensatrice così poco popolare, no? Perché per esempio c'è stata una grande attenzione nei suoi confronti nell'epoca del femminismo degli anni 70, fine degli anni 70 e anni 80, i quaderni che pubblicavano i suoi scritti da Adelphi hanno suscitato molta attenzione da parte del femminismo più filosoficamente più attrezzato, però fino in fondo anche non c'è stato uno schieramento al 100% nei confronti delle sue posizioni, perché le sue posizioni sfuggono anche al tentativo di renderla una capofila, no? Di una qualche scuola di pensiero. E quindi abbiamo pensato che fosse interessante, fosse anche possibile riproporre oggi il pensiero di Simone Weil, perché la cosa che ci ha interessato molto e credo sia interessante per tutti è la sua riflessione sul potere delle parole. E ci sono gli scritti sulla guerra, i suoi scritti sulla guerra, la famosa riflessione sulla cosa c'è oggi al posto di Elena nella guerra. Al posto del protagonismo che ha avuto Elena alla guerra di Troia, oppure non ricominciamo anche oggi a fare la guerra di Troia, cioè questa sua riflessione su questi punti sono molto belli, è molto interessante, molto bella, perché la cosa che lei dice, sciogliendo un enigma, insomma, in qualche modo, è che cosa c'è oggi al posto di Elena? Perché lei dice appunto Elena è un simbolo. Sì, è una donna di perfetta bellezza, nessuna donna è mai stata di perfetta bellezza, quindi c'è cioè, quello che c'era Elena, il gioco alla guerra di Troia, in gioco c'era un simbolo. E lei dice, e la cosa che a noi interessa e che mi sembra ci colpisca molto da vicino è la sua riflessione sul potere delle parole. Perché lei dice: al posto di Elena cosa c'è oggi? Ci sono le parole che fanno violenza alle cose e agli esseri umani. Perché dietro queste parole sono parole vuote, ma dietro queste parole si aggregano passioni e contrapposizioni che sprigionano violenza. E quindi questa è la cosa che ci è sembrata più importante. Appunto, lei li cita le parole che secondo lei sono quelle che, come dire, che con la spada in mano vanno ad aggredire i corpi viventi, no? Queste parole che tutte con le maiuscole, no? E lei mette pure il comunismo in queste parole assassine, no? Cioè, le parole assassine che travolgono gli esseri umani, i loro corpi, no? Stessi. Lei fa una lettura, inviterei molto chi non l'avesse fatto, a leggere le sue pagine dedicate all'Iliade. A questo poema, quella che lei definisce il poema della forza. Le parole che lei dedica, per esempio, ad Achille, a Priamo, ai corpi delle vittime e anche ai corpi dei vincitori, perché lei dice tutti e due, vincitori e vinti, sono a loro volta schiavi delle contrapposizioni che li hanno portati a scontrarsi a prezzo della loro vita e del loro sangue. È molto bello questa lettura che fa, però appunto va letta perché è proprio nella scelta delle parole. Lei è una delle prime, e in questo si capisce perché il femminismo l'ha molto valutata, il femminismo degli anni Ottanta, perché è una delle prime filosofe a mettere l'accento fortissimo sulla dimensione del simbolico e sulla dimensione della parola come parte della realtà, no? Capace di modificare e di incidere violentemente e pesantemente sul reale. Vi ricordate che il femminismo negli anni Ottanta diceva che, insomma, sosteneva che la vera battaglia per le donne era conquistare un simbolico autonomo, perché le donne senza simbolico erano comunque destinate ad essere soltanto delle vittime. Quindi mi taccio e do subito la parola a Rita Fulco. No, Carlo Gaeta, sì, questa è una così. Scelta vostra. Sì. Bene, a Giancarlo Gaeta, che è uno dei massimi studiosi della nostra pensatrice. Sì, grazie. Io comincerei col ribadire, insomma, la cosa che avete ascoltato, insomma, relativamente alla singolarità o all'anomalia, insomma, di Simone Weil. Anomalia che è particolarmente corposa, insomma, se l'attenzione si punta, come in questa occasione, insomma, è stato fatto, se si punta l'attenzione sui suoi ultimissimi scritti, i cosiddetti scritti di Londra. E in particolare, insomma, questo testo famoso, insomma, ormai, insomma, che è, nella traduzione italiana è stato intitolato un po' fantasiosamente La prima radice, in francese l'hanno chiamato L'enracinement, il radicamento, in realtà sono titoli redazionali, insomma, editoriali, scusate. Il titolo weiliano, insomma, è diventato un sottotitolo di quest'opera, ma è quello che è significativo, insomma, perché si chiama Preludio a una dichiarazione dei doveri o degli obblighi verso l'essere umano. Una dichiarazione che lei pensa in una situazione specifica. Siamo a Londra, sono i primi mesi del 1943, quindi è un momento che per la storia dell'Europa è decisivo, insomma, sono i mesi della battaglia di Stalingrado, è il momento della svolta, insomma, di fatto, della Seconda Guerra Mondiale, e anche l'apice della tragedia bellica, insomma, dal punto di vista della violenza in atto, insomma, su tutto il teatro europeo. E quindi, come dire, la riflessione che in questi mesi Simone Weil conduce a Londra è finalizzata in qualche modo a, come dire, a prendere atto, insomma, a comprendere, insomma, la situazione contemporanea e a provare a dare delle risposte. Ma che tipo di risposte? Perché il contesto generale, storico, è quello che ho detto. Il contesto specifico è quello del governo francese in esilio, a Londra, giusto appunto, a cui Simone Weil era stata in qualche modo chiamata a collaborare. Collaborare da intellettuale, da pensatrice. Perché uno dei compiti, insomma, che questo governo si stava dando necessariamente, insomma, era quello di immaginare il futuro, cioè immaginare che cosa, come sarebbe stato, insomma, sarebbe stata l'organizzazione dello Stato francese a guerra finita, supponendo naturalmente di vincere la guerra, insomma, ecco, di battere il nazismo, su quali quindi basi ricostruire il paese, quasi basi statuali. Quindi in ultima istanza giuridiche. Questa è la situazione, a cui bisogna aggiungere un terzo elemento, però, che in questo caso è di ordine soggettivo, cioè come lei è arrivata a Londra e con che stato d'animo, diciamo così, si è assunta questa funzione, questo compito intellettuale. In realtà a Londra lei arriva nel novembre dell'anno precedente da New York, dove aveva portato in salvo i suoi genitori, in salvo in quanto ebrei naturalmente. Ma torna a Londra con un obiettivo preciso, che era quello di potersi fare poi ributtare, diciamo così, sul campo di battaglia. Cioè, immaginava che avrebbe potuto essere inviata sul territorio francese, insomma, per svolgere funzioni in qualche modo operative, insomma, secondo naturalmente gli interessi bellici, insomma, no? Cosa che non le fu consentito. Non entro nei particolari di una vicenda complicata, insomma, però sta di fatto che non fu giudicata fisicamente, come attitudini, insomma, all'altezza di un compito di questo genere, le fu chiesto invece di applicarsi a un compito, appunto, di pensiero, contribuendo a elaborare i documenti che avrebbero dovuto poi, in ultima istanza, arrivare ad una approvazione, insomma, prima in questo governo in esilio, poi naturalmente una volta rientrati in patria. Ora, quel che avvenne, e per questo dicevo che qui si può cogliere al massimo grado la sua singolarità, è che questo contributo, che fu straordinario quantitativamente e qualitativamente, insomma, in 3 mesi di lavoro giorno e notte, insomma, ha prodotto qualche cosa come più di 500 pagine, insomma. Intervenendo su vari aspetti filosofici, politici, giuridici, proprio tentando di ridisegnare in qualche modo lo Stato e le sue istituzioni, muovendo in direzione in qualche modo dell'elaborazione di una dottrina politica vera e propria. Una dottrina politica che simbolicamente anche, insomma, possiamo vedere riassunta in questa affermazione un po' strana, che appunto contenuta nel titolo di quella che è stata l'opera maggiore, insomma, il saggio più grande, insomma, di questi mesi, cioè una dichiarazione dei doveri o degli obblighi verso l'essere umano. Ora, torno alla fine a cercherò di dire alcune cose, poche cose intorno a questo tentativo di costruzione della dottrina politica, che poi, insomma, Rita proverà a ulteriormente approfondire, ma penso che sia importante per capire, per dare senso, per spiegare la singolarità di questa sua concezione, che vedremo di fatto produce un rovesciamento della dottrina dei diritti. E poi questo è l'elemento sconcertante, insomma. Arriva una soluzione che è contraria allo Stato di diritto, in qualche modo, insomma, o comunque ripensa lo Stato di diritto e soprattutto appare in contrasto netto con la dichiarazione dei diritti. Quindi, capite, sono cose entro le quali noi siamo formati, che costituiscono, insomma, una specie di riferimento spontaneo, quasi ovvio, insomma, no? E che invece lei mette in questione. C'è un giurista nostro amico, insomma, che ha studiato un po' Simone Weil, che ha avuto l'onestà di scrivere, insomma, che se si vuol prendere sul serio il pensiero di Simone Weil, bisogna imparare a pensare in altro modo rispetto a quello a cui siamo abituati a pensare. E mi sembra un'osservazione sensatissima. Perché se non si fa questo, cosa succede? Succede che la vita singolare, Simone Weil che va a lavorare in fabbrica, che combatte la guerra di Spagna, che è di sinistra ma contemporaneamente critica la sinistra, eccetera, eccetera, tutto questo può condurre, insomma, in fondo a una lettura facile di Simone Weil, insomma, una lettura accattivante di Simone Weil, diciamo così, ma che non arriva al nocciolo della faccenda, insomma. Ecco. Allora, a me sembra che per riuscire a capire questa singolarità bisogna fare un salto indietro, che peraltro non è un grande salto nel tempo, perché è morto a 33 anni, a 34 anni, quindi ha avuto una decina d'anni o poco più di attività, come intellettuale, come pensatrice, eccetera. Ma tornare dietro di 10 anni, cioè al periodo, diciamo, tra il 32 e il 36, il 37, aiuta a capire molte cose. Allora, intanto, dal punto di vista, è un periodo che ha una sua specificità, perché è il periodo in cui fa due o tre cose, insomma, fondamentali, insomma, per la sua vita. Insegna nei licei della provincia francese, dunque appena laureata, milita nella sinistra rivoluzionaria, con una certa coloritura anche piuttosto marcatamente anarchica, e va a lavorare in fabbrica. Allora, queste tre cose, insomma, sono piuttosto collegate in lei, insomma, perché, quel che è costante è l'anomalia del suo modo di proporsi, insomma. È un insegnante sui generis, ce n'è rimasta una testimonianza diretta, in qualche modo, perché una ragazza, una studentessa, insomma, di uno dei licei in cui Simone Weil insegnò, prese dei diligenti appunti, insomma, delle note molto precise, insomma, forse in parte anche stenografate, insomma, dei suoi corsi, quindi abbiamo la possibilità di capire come insegnava. Una cosa mi sembra che almeno sia da rilevare, e cioè è un corso di filosofia in senso proprio, cioè non fa storia della filosofia, non spiega in sequenza gli autori, eccetera, eccetera, nel corso del tempo, no? Applica alle studentesse a pensare intorno ai temi fondamentali del pensiero filosofico, le grandi problematiche del pensiero filosofico. Ecco, in questo una delle cose, mi sembra, che in qualche modo stupiscono, e certamente stupirono le studentesse, è la grande attenzione posta sulla dimensione umana del lavoro, del lavorare inteso in senso manuale del termine. Cos'è il lavoro manuale? Ovvero, come dire, un valore che è determinato dal fatto, per lei, che è determinato dal fatto che il lavoro manuale è, come dire, è ritenuto il processo conoscitivo per eccellenza. Perché è il processo attraverso il quale viene messo in rapporto l'uomo e il mondo, cioè la fisicità delle cose, la materia da cambiare, da modificare, no? Da plasmare, secondo una volontà e un pensiero, insomma, no? Una intenzionalità propria di chi opera, di chi lavora. Questa immagine, se voi pensate alla figura classica dell'artigiano, ci sta tutta, no? Insomma, è evidente, no? Perché? Perché l'artigiano ha la visione complessiva del processo che vuole eseguire, sa da dove comincia e dove finisce. Esatto. Artigiano, insomma, che poi ha a che fare con l'arte, e difatti poi nel pensiero di Simone Weil questo si dilata, c'è l'artigiano in senso proprio del termine, ma c'è anche l'artista, insomma, no? Tutti i processi che hanno a che fare con l'arte, con la grande arte anche, insomma, no? Bene. Ora, questa è singolare, soprattutto forse insomma nei primi decenni del Novecento, ma che una giovane filosofa, insomma, sia così potentemente attratto da qualche cosa che per i suoi contemporanei era pressoché incomprensibile, insomma. La Simone de Beauvoir, che l'ebbe come compagna alla Sorbona, insomma, così che la incrociava, eccetera, diceva che gli avevano messo come soprannome a Simone Weil la Martienne, era una marziana, non si capiva bene, insomma. Con la sua mantella nera. Sì, un po' stramba, insomma, un po' così. Ma la cosa, al di là del folklore, la differenza sta proprio qui, insomma, no? Sta nel fatto che sin da ragazzina, in qualche modo, insomma, no? Percepisce la indivisibilità della, della materia e dello spirito. Che queste due cose devono stare insieme. Abbiamo segnato qua una sua frase che risale ancora appunto al 34-35, penso, in cui dice: per l'uomo che vive in questo mondo, qua giù, la materia sensibile, materia inerte, oggetti e carne, è il filtro, il vaglio, il criterio universale del pensiero. Sono parole pesanti, eh? Il criterio universale del pensiero, nell'intero ambito del pensiero. Cioè non c'è un modo di pensare che può prescindere, no? Dal rapporto tra materia e spirito. Senza che niente ne sia eccettuato. La materia è il nostro giudice infallibile. Ora, queste quattro righe scritta a 25 anni, c'è un'intera filosofia, c'è in nuce un intero pensiero filosofico che aspetta di essere dispiegato. Per rendere la cosa un pochino forse più plastica, in quegli stessi anni un grande pensatore come Edmund Husserl scriveva suo ultimo grande libro, suo ultimo grande saggio filosofico, che è La crisi delle scienze europee. Nei stessi anni Cassirer si poneva problemi analoghi, Bergson. Ora, questi grandi pensatori, come dire, che erano, appartenevano alla generazione precedente, insomma, a quella di Simone Weil, erano ben consapevoli anche loro di questa problematica, cioè del rapporto materia-spirito. Ma si muovevano, come dire, nel senso di tentare di salvaguardare lo spirito dalla materia. Cioè, parlavano di crisi delle scienze, crisi del sapere, volete, crisi della cultura umanistica, forse questo è più... cioè di quella grande visione rinascimentale per cui tutto si tiene, no? Per cui lo spirito è uno spirito che è in grado di accogliere, insomma, in sé una pluralità, no? di punti di vista, una pluralità anche di espressioni, no? L'arte, la matematica, il pensiero astratto, la politica, no? Ecco, la crisi di questa tipo di conoscenza, insomma, che ha fatto la storia dell'Europa, insomma, fino all'Ottocento, e nell'Ottocento è entrato in crisi. Perché è entrato in crisi? Perché la vita sociale, insomma, no, lo sviluppo sociale, i cambiamenti introdotti massicciamente dall'industrializzazione e quindi, come dire, l'effetto, insomma, no, di questo mutamento industriale, economico, eccetera, sulla società, è stato tale da sottrarre, no, l'ambito delle cose materiali, diciamo, tra virgolette, dalla presa del pensiero. Guardate, basta fare riferimento all'oggi per capire di cosa stiamo parlando. Insomma, là dove la tecnologia si impone in modo massiccio, la capacità, insomma, del pensiero di proporsi autonomamente diminuisce in proporzione. No? Oggi lo si vede molto, molto chiaramente, insomma. Il pensiero di Husserl e compagnia era quello di salvaguardare il pensiero, l'autonomia del pensiero, separandolo dai processi sociali, economici, industriali, eccetera, eccetera. Cioè creandogli, come dire, una sua autonomia. Heidegger è anche lui abbastanza consapevole, naturalmente, di questo tipo di processi, insomma. E forse rispetto a Husserl, insomma, è, come dire, un po' più attento a non separare, ma non nel modo in cui Simone Weil lo propone, che è invece appunto quello di assumere, no, come avevo letto qui, i processi materiali come schema entro il quale dovrebbe svilupparsi qualunque tipo di conoscenza. Ora, la cosa da aggiungere, sulla quale lei ha insistito moltissimo fino alla fine dei suoi giorni, è che se si separano questi due ambiti, si produce a livello della scienza una situazione analoga a quella che si sta producendo a livello dei processi lavorativi. L'esperienza di fabbrica, no? L'essere andata a lavorare in fabbrica per un anno, le ha insegnato una cosa fondamentale, e cioè che l'artigiano, no? quel simbolo, quell'immagine è stata frammentata, spezzata. Perché? Perché l'operaio della grande industria non sa più nulla dell'oggetto. Lui produce all'infinito, ripetendo dei gesti all'infinito, produce esclusivamente un segmento. È uno specialista, diciamo così, insomma, no? Un po' ironicamente, ma insomma è uno specialista. E non sa che cosa c'è prima e non sa che cosa ci sarà dopo. Quindi questo processo di frammentazione, no, tende a riprodursi, o lei già vede che si riproduce chiaramente, nei processi scientifici. Perché a loro volta i processi scientifici tendono a specializzarsi. In che modo? Come dire, ciascun sapere, ciascuna scienza procede oramai secondo un metodo. Chi entra in quella disciplina, e questo vale anche per le discipline umanistiche, chi entra in quella disciplina è invitato a applicare il metodo corrispondente. Difficilmente ci si pone il problema di risalire al metodo, cioè come si è generato il metodo, perché si è, in modo sempre più stringente, invitati ad applicarlo. Perché così come nei processi lavorativi manuali, quello che conta è il risultato. Quello che conta per il matematico, o per l'ingegnere, o per l'antropologo, è che produca, metta, no? Porta avanti la disciplina, no? Nelle nostre scienze, insomma, no? Ecco. La conseguenza di questa duplice frammentazione, insomma, è per Simone Weil che è che la società contemporanea è una società in cui si è perduto sia il lavoro sia la scienza, cioè si è perduto il senso di che cos'è lavorare fisicamente, e si è perduto la scienza intesa a sua volta come capacità di porre in relazione l'uomo col mondo. Da qualche parte nei quaderni osserva che con la scienza classica, da Galileo in avanti, insomma, si era già perso uno dei tre termini costitutivi del pensiero tradizionale, classico. Dio, mondo e... Uomo. Qual è il terzo? Uomo. E l'uomo. Uomo. Cioè si era perso Dio. No? Da Galileo in avanti, insomma, c'era venuta già la separazione, no? Non è che rinnega Dio, che non crede in Dio, ma è un'altra faccenda. Cioè abbiamo un pezzo di noi che si occupa delle cose spirituali e quindi di Dio, e poi per il resto ci apriamo del rapporto tra uomo e mondo, perché la scienza moderna si costruisce su questa base. Simone Weil osserva che a questo punto si è perso anche l'altro rapporto, cioè l'uomo non ha più un rapporto col mondo, non lo è più né fisicamente né a livello conoscitivo, né a livello di pensiero. Ecco, a me sembra che su questa base possiamo cominciare un po' a capire che cosa l'ha portata a Londra a immaginare, insomma, no? I fondamenti di una dottrina politica tanto singolare. Perché? Perché mentre De Gaulle e soci, insomma, no? Il governo francese in esilio, insomma, seguitava, come dire, in modo inerziale a pensare, no? Politicamente, insomma, nei termini a cui era, che era abituato a pensare, fatto, e quindi tendeva a riproporre una forma di Stato e di società, quindi di conseguenza, insomma, riformulata sul modello noto, diciamo così, seppur con alcuni significativi aggiustamenti, sotto l'etichetta democrazia, naturalmente, Simone Weil pensa che questo non è assolutamente sufficiente. E per una ragione storica precisa. Perché lei parte dalla riflessione, dalla domanda, perché è successo quello che sta succedendo? Cioè, come siamo arrivati a questo punto catastrofico che stiamo vivendo? Insomma, perché l'Europa ormai è sull'orlo del baratro? Perché, insomma, e non è un'idea apocalittica, bastava che il nazismo vincesse, insomma, era la fine, cioè, vuol dire, il nazismo è stato concepito come la fine dell'Europa, insomma, proprio è forse la sua idea più potente, quella che seguita ad agire ancora oggi, insomma, no? Quindi il baratro era attuale nei nostri sovranisti, no? Sì, sì, e non solo, insomma. Quindi riteneva che non si potesse sfuggire alla domanda perché siamo arrivati a questo punto, attraverso quale processo storico siamo arrivati, che cosa è mancato, insomma, in questi, almeno nei secoli della modernità, insomma, no? dal 1500 in avanti, insomma, no? Quando siamo usciti, insomma, fuori dal Medioevo, insomma, no? Cioè, che cosa ne è stato, insomma, della scienza, dell'arte, della religione, no? In che modo hanno agito, insomma, di fatto, insomma, le volontà, insomma, di chi ha gestito il potere politico e il potere culturale. Lei ne ha fatto l'analisi, sarebbe interessantissimo andarla a vedere, adesso qui non possiamo farlo, insomma. Ma la cosa che comunque lei, su cui insiste, è che se ciò che è stato finora ha condotto a questo punto, bisogna cambiare, può voler dire una cosa sola, produrre una frattura, una discontinuità radicale con il passato. E senza questa discontinuità, come dire, vi saranno degli aggiustamenti, no? Come dire, è l'inerzia dei processi, no? Pian piano, adesso magari all'inizio ci sarà uno stacco, ma poi si rimetteranno in atto, insomma, tutta una serie di problemi, perché non cambia il modo di produzione, non cambiano i processi scientifici, non cambia nulla, insomma, no? Dal punto di vista, no? Come si fa a cambiare i processi tecnologici? possiamo porgli dei limiti, possiamo modificarli, in che direzione sono, no? Cioè, sono una serie di domande a cui nessuno è interessato a rispondere di fatto. Ecco, gli scritti di Londra sono questa cosa sono un abbozzo di dottrina politica, perché ha avuto quel poco tempo che ha avuto, insomma, no? Ha raccolto in qualche modo, secondo me, insomma, il frutto della sua riflessione portata avanti da quando era ragazza, insomma, a questo punto. Ha immaginato che bisognasse trovare il modo di invertire in qualche modo una serie di processi. Per esempio, invertire quello che lei chiama i processi di sradicamento, che dal punto di vista sociale hanno avuto, a suo avviso, degli effetti devastanti. Ne classifica almeno tre. Sradicamento operaio, cioè nel senso appunto del passaggio dall'artigiano all'operaio, no? Alla catena di montaggio, tailorista, eccetera, insomma, no? Quell'operaio che non solo è sfruttato, ma è anche compresso, diciamo così, da un punto di vista mentale, conoscitivo, spirituale, no? Dentro una gabbia che ne fa uno schiavo, di fatto, insomma, un essere che non deve pensare. Questo l'aveva verificato su se stessa. Esatto, gli era venuto in mente anche a Simone Weil, uscita anche lei, insomma, no? Lo sradicamento, parla di sradicamento, come si chiama? Operaio. Del mondo contadino, sradicamento contadino, no? Cioè le masse che allora cominciavano, no, a spostarsi, insomma, dalla campagna verso le città, verso l'industria, eccetera, e sradicamento geografico, noi potremmo chiamare anche ecologico, insomma, no? Cioè tutti quei processi che stavano conducendo, e che ormai, insomma, sono arrivati a conclusione, insomma, nel nostro mondo, per cui diventa sempre più difficile sentire il luogo dove si vive come la propria patria, come il proprio luogo, dove ci sono le radici, giusto, appunto, no? Che vuol dire anche l'ambiente fisico, i rapporti tra le persone, no? Cioè l'essere dentro un mondo relazionale. Ecco, la cosa singolare, insomma, se volete, insomma, è che tutta questa riflessione ruota alla fine sul rovesciamento, no, rovesciamento non è la parola esatta, su, come dire, vabbè, una messa in questione della cultura del diritto, chiamiamola così, o dei diritti. A favore invece della nozione di obbligo. Che ha, in sintesi, poi lascio la parola a Rita, ha, mi sembra, due effetti. Uno è quello di, come dire, di imporre una riflessione critica intorno alla nozione di Stato di diritto. Mm. perché, come dire, lo Stato di diritto naturalmente, è un passo avanti, no? Rispetto allo Stato assoluto. Ma a suo avviso non ne toglie fino in fondo la radice negativa, che è la forza. Perché conserva, insomma, no? Cioè c'è la cosa positiva, sono i sistemi di controllo, no? All'interno dello Stato di diritto, insomma. E che quindi la divisione dei poteri, eccetera, a cui naturalmente lei è totalmente favorevole, insomma. Però, come dire, restano in atto, no? Tutta una serie di elementi, insomma, che erano costitutivi del vecchio Stato. Il monopolio della violenza, per esempio. Vediamo, ne avevo elencati qualche uno che mi sembravano. La ragione di Stato, no? A cui seguite ad appellare tranquillamente, insomma, no? Che vuol dire, cosa controlliamo? Se il governo decide che per ragione di Stato bisogna fare questa cosa. Il predominio degli interessi di parte nella ricerca della giustizia. La manipolazione dell'opinione pubblica, lo spirito di partito. Su questo lei ha scritto un intero saggio, insomma, che oggi andrebbe meditato, insomma, no? Era a favore dell'abolizione dei partiti politici nel nuovo Stato. Perché? Non per altro, per eliminare lo spirito di partito, no? Cioè quella forma che induce, insomma, le persone a identificarsi in una forma astratta, che non esiste, insomma, no? Un'ideologia o semplicemente un'immagine o qualcosa di suggestivo, eccetera. Ecco. E che quindi suscita passione collettiva. Questo è il punto, poi. Eliminare la passione collettiva è fondamentale. Insomma. Il lavoro e la scienza sottratti al lavoro, alla ragione individuale, insomma, quindi tutto il sistema di insegnamento, insomma, nello Stato democratico non è sostanzialmente cambiato, c'è stato un allargamento, no? Di accesso, no? Ma i processi formativi, insomma, degli individui, dei giovani, insomma, non è diverso da quello del vecchio Stato. Nei documenti che Simone Weil doveva correggere, insomma, no, che arrivavano dalla Francia, dalla resistenza francese, insomma, no, cioè le elaborazioni che venivano portate, offerte, insomma, alla riflessione del vertice, insomma, no, c'era anche uno relativo alla riforma della Costituzione. Lei ha scritto un saggio sulla riforma della Costituzione. E si è trovata di fronte a questa frase che intestava la Costituzione: la sovranità risiede nella nazione. Sono andato a confrontarla con la nostra Costituzione, allora dice: la sovranità appartiene al popolo. Osservazione della Weil, come meditare: di fatto è sovrana la forza, che è sempre nelle mani di una piccola parte della nazione. Come dire, le frasi che ho letto prima, le due dichiarazioni, hanno senso, no? Ma sono delle forme, no? Sono delle dichiarazioni di principio, ma se alla dichiarazione di principio non corrisponde, insomma, no, un cambiamento tale nella società, nella realtà sociale, da rendere effettiva la realizzazione di queste cose. In altri termini, se la forza non viene sottratta allo Stato, insomma, e quindi non diventa, come dire, un modo, non si determina un modo libero, insomma, no, di gestione del potere dal basso, non cambia in sostanza nulla. Va bene, mi fermo qui, insomma, poi magari ci torniamo sopra perché le cose sono molto complesse. Sì. Bene. Adesso diamo la parola a Rita Fulco. Innanzitutto grazie per questo invito, grazie in particolare a Laura Pennacchi e sono particolarmente contenta di essere qui in una scuola di politica e devo dire che quando appunto ho letto nel programma che si ricominciava a leggere, insomma si proponeva di leggere La prima radice di Simone Weil, sono stata proprio profondamente felice. Perché appunto a mio avviso è una scelta coraggiosa, è una scelta che si addice esattamente a questo posto, cioè a una cosa che si chiama scuola di politica, e in qualche modo è una risposta a quello che lei avrebbe voluto allora, cioè tutto il suo sforzo, che è stato uno sforzo profondo perché aveva dei problemi di salute molto gravi e così via, era stato fatto perché il suo desiderio era quello di dare una nuova ispirazione alla Francia, no? E appunto Giancarlo Gaeta mi ha aperto la strada perché ha già delineato il modo in cui questa opera che ho portato qui fisicamente, perché appunto è importante anche averla e toccarla, insomma, e lei avrebbe voluto dare questa nuova ispirazione alla Francia, perché nel 1940, nel momento in cui appunto la Francia era stata invasa, di fatto quello che lei sottolinea a più riprese è che non era stato il tradimento semplicemente di un'élite, di poche persone, ma era stato la debacle morale dell'intera nazione. E allora la questione per lei, per la quale davvero non si dava pace, come è potuto succedere questo? Cioè, come è potuto succedere che un'intera nazione non abbia lottato con tutta se stessa fino allo stremo per impedire, no, l'invasione dei nazisti, ma anzi in qualche modo si sia piegata ad un certo punto a questo compromesso, no? E quindi al governo di Vichy e così via. Per cui in quella stanzetta a Londra, con pochissime forze, lei cerca di comprendere e va appunto alla radice di tutto questo, perché la cosa che a Simone Weil stava di più a cuore era appunto quello che chiamerei l'essere insieme in un luogo, l'essere insieme in un luogo, che è quello che probabilmente sta a cuore a tutti quelli e a tutte quelle che siamo qui in questa stanza. E poiché secondo me in questa opera, nella prima radice, si parla essenzialmente di questo. Cioè, che cosa significa? Come possiamo ridare una nuova ispirazione a questo essere insieme in un luogo, a questo abitare una casa comune? E in effetti, appunto, un ruolo fondamentale, un ruolo di primo ordine, Simone Weil lo assegna proprio ai politici, cioè tutte le cose che lei sta scrivendo, su cui sta lavorando, di fatto sono per il governo, coloro che prenderanno il potere nel momento in cui la Francia verrà liberata. Quindi immaginate una situazione appunto disperata, di totale fine di una serie di valori, eccetera, e l'idea di dover pensare il dopo. Quindi lei, ancora la guerra non era finita, siamo nel 43, e lei non saprà mai, o saprà pochissimo di quello che è successo nei campi di concentramento, non saprà come finisce la guerra, non sapeva niente, però in questo momento la sua capacità di preveggenza e la sua estrema attenzione le diceva di dover lavorare, appunto, di dover immaginare un dopo questo disastro. Che è una condizione, come dire, che forse che potrebbe servire a tutti noi in qualsiasi momento, perché noi viviamo in una situazione di crisi, di crisi costante, soprattutto in questo mondo globalizzato di cui abbiamo la responsabilità, non solo dell'Italia, ma di tutto quello che succede nel mondo. E in quante parti del mondo in questo momento c'è questa debacle, a cominciare dalla Siria alla Libia e così via. no? E allora noi abbiamo la responsabilità anche di quello che sta succedendo lì. Per questo La prima radice è un testo che da ricominciare a leggere e da ricominciare soprattutto a meditare. E in effetti è vero che ci sono una serie di consigli pratici, cioè di soluzioni in qualche modo che Simone Weil immagina, sulle quali poi potremo discutere se con chi di voi ha letto eventualmente già il testo. Ma ciò su cui mi voglio soffermare, soprattutto perché io su questo mi soffermerò soprattutto su quest'opera, visto che Giancarlo mi ha dato l'opportunità di fatto di farlo, perché ha aperto appunto, ha già delineato tutta la situazione e ha detto tantissime cose fondamentali di Simone Weil. La cosa fondamentale è che lei appunto riconosce alla politica, e per lei politica vuol dire appunto coloro che si prendono sì certamente il potere nel governo direttamente, ma significa cultura, significa mass media, significa educazione. C'è una politica, anche per questo probabilmente piaceva molto anche alle donne degli anni 70, no? È la politica anche della vita quotidiana, delle relazioni interpersonali, ma in quest'opera si interessa particolarmente appunto di coloro che prenderanno il potere. E una definizione molto importante, a mio avviso, nella scaletta che vi avevo dato, io avevo detto che avrei trattato due punti. Il primo era la possibilità di una politica spirituale, e quindi l'intreccio problematico, proprio uso questa parola perché la usa lei, e questo intreccio problematico fra la dimensione dell'immanenza e quella della trascendenza. E poi al quarto punto dicevo che avrei trattato la questione della politica come arte. Di fatto li ho unificati perché vanno unificati. E in effetti voglio leggervi una frase tratta dalla prima radice, pagina 195, per chi vorrà poi andare a riprendersela. E Simone Weil scrive: la vera missione del movimento francese a Londra è, proprio in ragione delle circostanze politiche e militari, una missione spirituale prima ancora che una missione politica e militare. Potrebbe essere definita come la direzione di coscienza a livello di una nazione. Quindi, intanto pensate, certamente subito possono venire in mente, diciamo, i discorsi foucaultiani, per cui ci si sente un po' soffocati, no? Dire in che senso la direzione di coscienza, cioè rispetto a questo, no, si ha subito una sorta, perlomeno per chi ha una certa sensibilità, no, un certo modo di ribellione. Ma in che senso? Noi dobbiamo immaginare il momento che lei stava vivendo e appunto la debacle morale di cui parlavo prima, cioè questo lasciare andare completamente la Francia agli invasori e come dire, saper lottare per dei momenti bassi. Lei diceva: tutti i francesi sono capaci di restare in fila anche per 5, 6, 7, 8 ore per avere un uovo, per avere un pezzo di pane, ma se uno dei francesi dovesse aiutare uno sventurato o una persona che in questo momento si trova in una situazione di estrema difficoltà, non riuscirebbe a farlo. Cioè, quindi vedere lo sfilacciamento della società, lo sfilacciamento dello stare insieme. Pensate a quanti tradimenti, no? Quanti vicini di casa che denunciavano i vicini di casa ebrei, no? Quanta pochezza, no? Nelle relazioni anche interpersonali. Quindi in questo senso si capisce meglio che cosa significa una missione spirituale. Cioè, si trattava davvero di, diceva bene prima lei, la questione del ridare delle parole, dell'importanza di ridare non solo delle parole ma ovviamente anche degli esempi, che potessero in qualche modo far rinascere da questo disastro la Francia. La Francia non soltanto dal tradimento, ma anche immaginatevi un po' i sensi di colpa che ci sarebbero stati dopo. Dopo la lei pensava anche a questo, no? Al fatto che in un certo senso ci sarebbe stato anche un prendere consapevolezza improvvisamente del disastro al quale si era condotta la Francia. E in effetti la cosa che Simone Weil pensa, cioè ciò che rende simile la politica all'arte, è quello è il fatto che la politica, proprio in una situazione difficile come questa, ma sempre in realtà, cioè stiamo parlando di quella situazione difficile, ma in realtà è sempre così, l'azione della politica deve essere un'azione, dice Simone Weil, considerando insieme più piani sovrapposti, cioè una considerazione simultanea di più piani. Questo la rende molto simile all'arte. Leggo sempre a pagina 195. La politica ha un'affinità strettissima con l'arte. Con arti quali la poesia, la musica, la composizione simultanea su piani diversi è infatti la legge della creazione artistica e ne costituisce la difficoltà. Cioè, a quante cose deve badare un poeta affinché una vera poesia, affinché ci sia una poesia di alto livello? Lei ne elenca tantissimi, no? dai versi, dal ritmo, dalla scelta delle parole e così via, e tantissime altre cose che ciascuno di noi ha in mente. In qualche modo anche nella politica è così. E ripeto, politica innanzitutto, lei sta pensando a coloro davvero che riterranno che avranno il potere dopo, ma politica anche nel senso dell'educazione, nel senso della cultura e così via. Perché la politica, anche la politica è un'arte regolata da questa disciplina dei piani sovrapposti. E chiunque, dice Simone Weil, chiunque abbia responsabilità politiche, e aggiunge un inciso però fondamentale, se c'è in lui fame e sete di giustizia, se c'è in lui fame e sete di giustizia, deve considerare il desiderio, deve coltivare dentro di sé il desiderio di avere la capacità di questa composizione su piani multipli, su piani sovrapposti, che è una vera e propria arte, una disciplina che bisogna imparare e che non si improvvisa, e che non bisogna scambiare, anche questa è una cosa che molto importante, non bisogna scambiarla con il possedere lo strumento. Cioè, se come dire, un compositore si trovasse in un luogo in cui non esistesse nessun pianoforte, questo compositore riuscirebbe comunque a comporre musica, perché è nella sua mente. Un politico che pensasse, invece che fare della buona politica significhi semplicemente ricevere il potere, prendere lo strumento, il suo pianoforte, no? Sono stato eletto, ho il mio pianoforte, adesso devo suonarlo, ma devo anche comporre la musica da suonare per questo paese del quale io ho la responsabilità. Ma avere un pianoforte non basta a saper comporre. E questa è la cosa fondamentale che Simone Weil continuava a dire: il potere non è mai fine a se stesso. E infatti la spiegazione che lei si dà, per cui non è mai stata fatta questo paragone, o comunque è stata fatta poco il paragone tra la politica e l'arte, è esattamente questo. Leggo, perché siamo a pagina 197. Dice: la politica non è quasi mai considerata come un'arte di qualità tanto elevata. Ma questo perché si è presa l'abitudine da secoli di considerarla solo e prevalentemente come la tecnica per l'acquisto e la conservazione del potere. È come il famoso compositore che vuole comprarsi un pianoforte. E poi che se ne fa se non sa comporre e non sa leggere la musica e non sa suonare? Se lo rivende, anche in politica a volte si fa questo. Ma il potere, appunto, questo dice Simone Weil fondamentalmente, il potere non è fine a se stesso, mai. Per natura, per essenza e per definizione, usa tre categorie molto importanti filosoficamente, per natura, per essenza, per definizione, il potere è solo un mezzo. Il potere è solo un mezzo. E sta alla politica, lo dice lei, come il pianoforte sta alla composizione musicale. Se non si comprende questo, si rischia di pensare di arrivare ad avere il potere e che questo automaticamente ci dia la possibilità di governare in modo in modo adatto, in modo giusto, di saper suonare per i nostri cittadini. Quindi questa è una prima interpretazione della politica in senso spirituale, della politica intesa come arte, che viene sviluppata in varie parti, soprattutto in quelle che vi ho letto. Un'altra questione relativa al senso in cui Simone Weil intende la politica spirituale è un po' più interna, a mio avviso, all'interpretazione del pensiero di Simone Weil stessa, e ne facevamo cenno prima. E cioè, mentre negli scritti precedenti Simone Weil tentava di tenere il più possibile separati il piano appunto della riflessione politica e quello della trascendenza e dell'immanenza, ecco, per capirci, nella prima radice invece molto spesso questi piani sono mescolati e molto spesso si fa riferimento anche proprio a una tradizione religiosa. Simone Weil non si è mai voluta fare battezzare, è rimasta sempre sulla soglia, non è mai entrata né in una chiesa né in un partito, non ha mai preso la tessera di nessun partito, non ha mai ricevuto il battesimo, si è avvicinata certamente al cristianesimo e probabilmente alla figura di Gesù, perché rispetto alla Chiesa Cattolica ha scritto un testo come Lettera a un religioso che ha delle critiche sferzanti e importantissime che probabilmente ciascuno che si dice cattolico dovrebbe rileggersi prima di continuare a dirsi cattolico, probabilmente. E, in ogni caso, Simone Weil mescola questi piani, ma in un modo che probabilmente potrebbe essere accettato anche da chi non ha un orizzonte spirituale, perché la sua fede, in qualche modo, anche se non importa la sua fede personale in questo momento, non è questo che mi interessa, perché deve essere un qualcosa che deve parlare a tutti quanti, quindi prescindiamo dalla sua fede personale che, come giustamente ha sottolineato Giancarlo Gaeta, anche in vari suoi testi, sicuramente era quella del Gesù, del cristianesimo in qualche modo. Ma è anche, per esempio, la riflessione sulle religioni orientali, su tutte le tradizioni orientali, tutte le tradizioni, quindi dal buddismo al taoismo, alla tradizione zen e così via. Ma anche, per esempio, Platone, no? Questa sua fede in una realtà in cui abita il bene, dice Simone Weil, il bene con la B maiuscola. Non possiamo non pensare a Platone e non serve solo una tradizione religiosa per questo. Questa idea che esista una realtà fuori da questo mondo in cui abita il bene, in cui, dice Simone Weil, il bene produce solo bene, il male produce solo male. L'inferno in questo mondo in realtà è dato dal fatto che il bene e il male sono talmente mescolati che non abbiamo quasi mai la capacità di discernere che cosa è veramente buono e che cosa è veramente cattivo, perché molto spesso appunto tutto è mescolato, ed è mescolato anche a causa di quello che lei chiama il prestigio sociale, i vestiti, il potere, l'occupare un certo grado all'interno della società sicuramente sono qualche cosa che vela se un'azione, se un certo modo di fare viene dal bene o produce del bene o produce il male. È la cosa più difficile discernere. E allora, in che senso Simone Weil pensa che tutti coloro che devono assumere il potere o che si occupano, che stanno attorno a coloro che eventualmente hanno già il potere, devono fare? E quella che appunto in greco chiameremmo la metanoia, metanoia, è il mutare nous, mutare mente, che poi viene tradotto ovviamente anche come conversione, no? Il convertere, ma il cambiare, vertere cosa? Il vertere è lo sguardo, il nostro sguardo interiore di ciascuno di noi, ma lei auspicava soprattutto di coloro che in qualche modo avranno delle responsabilità nei dei destini degli altri esseri umani. Cioè, se per lei era così fondamentale, nei quaderni soprattutto c'è un'attenzione importantissima alla formazione spirituale, alla propria formazione spirituale, perché mai, se per ciascuno l'attenzione alla formazione spirituale, che attenzione, anche questo non è semplicemente un patrimonio appunto delle tradizioni religiose, pensate a tutto l'ultimo Foucault, per esempio, pensate allo stoicismo, pensate a Hadot, quindi la spiritualità singolare, se è importante per ciascuno di noi, perché mai non dovrebbe essere per coloro, lo dice Simone Weil, questo che hanno in mano il destino di centinaia se non milioni di esseri umani? Quindi da coloro che prendono il potere, il governo, per esempio ai giudici, ci sono delle pagine molto lunghe qui nella prima radice, ma anche negli scritti di Londra, che vi consiglio sicuramente di prendere, sono stati tradotti da un paio d'anni in Italia, ne ha parlato diffusamente Giancarlo Gaeta, sull'educazione spirituale dei giudici, degli avvocati, di coloro che si occupano della giustizia e della legge. Che a suo avviso, prima di diventare giudici o avvocati, okay, dovrebbero avere questa disciplina spirituale. Quindi, volgere lo sguardo verso il bene. Ma in che cosa si può concretizzare questo bene? È semplicemente un bene astratto? No, Simone Weil non sa cosa farsene delle cose astratte. Per lei, lo ripete più volte, la filosofia è una cosa esclusivamente in atto e pratica. Il che non vuol dire, attenzione, che non ci siano dei valori o appunto questa realtà trascendente che sta fuori da questo mondo alla quale tendere, ma in che senso il bene ha una sua concretezza, ha una sua forza concreta, una sua immanenza? Lei sostiene che questa concretezza del bene su questa concretezza del bene c'è un accordo, dice Simone Weil, della coscienza universale. Un accordo della coscienza universale. Dove lo troviamo? Dove lo possiamo riscontrare, questo accordo della coscienza universale? Anche qui, nelle prime pagine della prima radice, Simone Weil fa riferimento alle tradizioni religiose che sono patrimonio dell'umanità. Non solo il cristianesimo, ma addirittura lei cita proprio all'inizio il libro dei morti egiziano. Leggo, siamo a pagina 15 della prima radice, se vorrete andarlo a ritrovare. Dice: la coscienza umana su questo punto, cioè qual è il punto? Il punto è quello del bene nei confronti degli uomini. Vediamo che cosa si intende con questa concretezza del bene. La coscienza umana su questo punto non ha mutato mai. Migliaia di anni fa gli egiziani pensavano che un'anima non possa giustificarsi dopo la morte se non può dire: non ho fatto mai patire la fame a nessuno. Quindi, libro dei morti egiziano, non ho fatto mai patire la fame a nessuno. E tutti i cristiani, vedete come mette insieme anche questo, no? Tutti i cristiani sanno di dovere udire un giorno Cristo dire loro: ho avuto fame e tu non mi hai dato da mangiare. Quindi in una sorta di cerchio, queste tradizioni che convergono su che cosa? Sul fatto che il bisogno, il bene, la prima cosa, che la concretezza del bene è il non fare morire di fame gli uomini. E il progresso di tutta la società umana è misurato sul momento in cui nessuno morirà più di fame. Ovviamente, pensate che discrasia c'è tra questo accordo della coscienza universale, che dice che appunto il bene per tutti gli esseri umani è quello di non far morire di fame gli uomini, e la situazione in cui tuttora ci troviamo, in cui invece grande parte dell'umanità ovviamente muore di fame, lontano da noi, ma anche negli interstizi delle nostre città, li vediamo, a volte facciamo, non ce ne accorgiamo, no? Oppure li guardiamo e non sappiamo cosa fare. Eppure Levinas, ma anche Dostoevskij, diceva: io sono io responsabile per primo, ma io più di tutti gli altri, io più di tutti gli altri. E in qualche modo Simone Weil si assume questa responsabilità, questa profondissima responsabilità. E però, appunto, Simone Weil è anche il realismo che la abita, le fa dire, le fa commentare, per esempio a più riprese, un brano di Tucidide, in cui appunto, che peraltro è ripreso anche da Carl Schmitt, quindi come dire, è il nucleo forse in cui davvero è espressa quella che noi potremmo chiamare la legge di natura. Tucidide, in una scena appunto in cui gli ateniesi stanno per distruggere l'isola di Melo, che verrà rasa al suolo, i Meli chiedono di non essere appunto di non essere distrutti, che la loro isola non fosse annientata, ma gli ateniesi rispondono: voi sapete meglio di noi che per una legge di natura ognuno comanda ove ne abbia il potere, e se anche voi foste dal nostro lato, voi stessi dalla parte del più forte ci distruggereste. Quindi adesso io l'ho riassunta a memoria e però molto interessante rileggere esattamente questa frase che non ho qui, e l'esplicazione più chiara, dice Simone Weil, nessuna frase, nessuna parola della storia occidentale ha saputo riassumere in modo così chiaro e netto la legge del dominio del più forte sul più debole. E allora, se lei è convinta di questo, com'è possibile che contemporaneamente dica che la coscienza universale di tutti quanti concordi col fatto che il bene per gli uomini è non far morire di fame gli altri? Come possiamo giungere a unire queste due cose? Cioè, sono in contraddizione o no? Certo, sono in contraddizione, ma Simone Weil fa un tentativo, secondo me, straordinario in quest'opera. Questa è un po' una lettura mia, ma perché io cerco di, come dire, dare una chiave anche ontologica, cioè che riguarda l'essenza dell'essere umano, che a mio avviso c'è in questa, nella prima radice, che però si può leggere anche semplicemente da un punto di vista politico. Ma rispetto appunto a quello che diceva prima Giancarlo Gaeta, io leggo un salto ulteriore, e cioè, secondo me, Simone Weil in quest'opera sta andando a rivoluzionare quello che fin dai tempi di Hobbes abbiamo, cioè ci è stato detto, che cos'è l'uomo, l'essenza del, ma anche fin da Caino e Abele, l'essenza dell'essere umano è il fatto che l'uomo è un lupo per l'uomo, homo homini lupus, no? E invece Simone Weil, appunto, proprio nelle prime pagine delle Racinement, leggo: un uomo considerato per se stesso ha solo dei doveri, tra i quali si trovano certi doveri verso se stesso. Un uomo che fosse solo nell'universo non avrebbe nessun diritto, ma avrebbe degli obblighi. E continua: l'oggetto di obbligo nel campo delle cose umane è sempre l'essere umano in quanto tale. C'è, il y a in francese, c'è obbligo verso ogni essere umano per il solo fatto che è un essere umano, senza che alcun'altra condizione abbia ad intervenire. Ora, in questa frase c'è un cambiamento molto importante, a mio avviso, perché qui si stanno mettendo in luce alcune questioni fondamentali. È un tentativo che lei fa, è una proposta. Però, voglio dire, se Hobbes ci ha detto homo homini lupus, perché un'altra persona, e lo farà anche Levinas poi, perché non possiamo pensare che una donna, un'altra filosofa, ci stia dando un'altra origine dell'essere umano? Perché? Perché lei dice, ci dà un'indicazione fondamentale sul darsi di questo obbligo, cioè sul momento in cui l'obbligo appare in questo universo. E ci sta dicendo che l'obbligo, il darsi dell'obbligo, è simultaneo all'esserci dell'uomo. Cioè, dal momento in cui noi veniamo sulla Terra, in cui nasciamo sulla Terra, Simone Weil non dice abbiamo degli obblighi, ma siamo in obbligo. Siamo in obbligo. Siamo in obbligo nei confronti innanzitutto dell'altro essere umano. In un certo senso è come se lei ci stesse dicendo, se noi facessimo la domanda, che cos'è l'umanità dell'umano? È una frase, è una cosa che usa soprattutto Levinas, la locuzione umanità dell'umano, no? Che cos'è l'umanità dell'umano? Levinas risponde: è l'essere responsabili nei confronti dell'altro. Ma io, anche in vari studi che ho fatto, sono convinta che anche Levinas, che aveva letto Simone Weil, non possa essere restato indifferente rispetto a questa cosa qui. Simone Weil avrebbe detto: l'umanità dell'umano significa l'essere in obbligo nei confronti di ciascun altro che ho di fronte, dell'altro e dell'altra, di colui che mi è accanto. Cioè noi non siamo semplicemente, uso di nuovo le parole di Levinas, un essere con, un essere accanto agli altri. Noi siamo un essere per l'altro e per l'altra. Questo è l'essere in obbligo di cui ci parla Simone Weil, che è un cambiamento profondo, profondo. Non ci si riflette abbastanza, perché una politica che parta dall'homo homini lupus è una politica dell'immunità, dell'immunitas, dobbiamo difenderci, dell'alzare le barriere, no? Una politica dell'obbligo, che nasce da un certo concetto di essere umano che è come l'essere in obbligo, può essere molto diversa, può essere qualcosa di diverso. Cioè, l'essere in obbligo ci sta dicendo qualcosa della relazione prima di ogni relazione dell'essere umano. Per questo parlavo prima dell'ontologia dell'umano, inteso come l'essere, ontologia, l'essere dell'uomo come essere in obbligo. E anche qui però, appunto, essere in obbligo non è, come dire, una parola vuota. E in tutta questa prima parte, torno a prendere in mano questo libro che spero avrete in mano anche voi, prima o poi, o l'abbiate già avuto, e lei concretizza, essere in obbligo vuol dire, intanto io ne faccio una questione ontologica perché mi interessa questo filosoficamente, a lei questo, come dire, lo ha detto, ma non era questo che le interessava, anche se secondo me è un cambiamento epocale. A lei interessava che l'obbligo avesse poi una concretezza, e allora comincia a dire che essere in obbligo significa soddisfare tutti quelli che sono i bisogni dell'anima e del corpo. Ne ha già parlato in parte Giancarlo Gaeta. I bisogni, il primo di tutto è quello della fame. E lei dice i bisogni, l'uomo non ha bisogno di pasta o di pane, ha bisogno di cibo. Non ha bisogno di una casa in montagna e una casa al mare, ha bisogno di un luogo che lo custodisca, cioè, come dire, invita anche al discernimento, no? Rispetto a che cosa vuol dire bisogni vitali dell'anima e del corpo. Ma detto questo, passato questo discernimento, che peraltro è qualcosa alla quale bisognerebbe tornare, una sobrietà, come dire, del ritorno a questa radicalità del guardare l'obbligo e il bisogno dell'altro, però appunto ne elenca tantissimi, non mi voglio soffermare su tutti questi perché peraltro, come dire, toglierei bellezza alle sue parole che invece vanno lette secondo me, ecco, potrei dirvi che parla del bisogno di libertà, che parla del bisogno anche del bisogno di ordine, che parla del bisogno di sicurezza, ma quando io pronuncio queste parole sulle quali non mi posso poi soffermare, in realtà tolgo tantissimo di quella che è poi la sua analisi e che invece possiamo, se volete, anche leggere poi nella discussione. E invece, come ultima cosa, ho 10 minuti, quindi mi fermo dopo quest'ultimo punto, mi voglio fermare su una questione importante, che è quella del radicamento, perché lei, Simone Weil, dice che il primo bisogno più importante è quello del radicamento. Non so cosa sia questa cosa, mi mette ansia? No. Non l'ho capito. Vabbè, comunque. Allora, radicamento, sì, grazie. Ritorno per parlare del radicamento alla locuzione con cui ero partita, e cioè all'inizio io avevo detto che appunto a Simone Weil sta a cuore l'essere insieme in un luogo, e avevo usato appositamente questa locuzione anziché usare la parola comunità. Perché? Perché nella parola comunità molto spesso, soprattutto di questi tempi, subito salta, come dire, emerge, ecco, il come uno, comune è il come uno. E in realtà Simone Weil aborriva il come uno, a lei dell'essere insieme in un luogo non interessa tanto il come uno, interessa il munus del comune, il munus del communis. Che cos'è il munus? È il dono reciproco, ma è anche l'obbligo. L'obbligo, l'essere obbligati. E allora nella communitas, ciò che a lei interessa è questa condivisione del dono, ma anche dell'obbligo. È questo che ci lega gli uni con gli altri. In questo essere obbligati, e in questo munus del communis, ciò non significa che bisogna cancellare quelle di cui parlavo prima, le difese immunitarie, ma certamente bisogna limitarle. Bisogna dargli una forma. L'immunità dovrebbe avere la forma positiva che si ha, per esempio, in una gravidanza. L'esterno, l'estraneo, sta dentro la madre, perché la madre è capace, o comunque c'è un'interazione delle difese immunitarie del feto e della madre, tanto che questa vita può crescere dentro. E allora lì c'è davvero messa in forma, un bilanciamento delle difese immunitarie che consente questa vita dell'estraneo dentro lo stesso. Addirittura potremmo dire che non c'è più lo stesso e l'estraneo. Che tipo di identità è questa? E allora mi soffermo sul radicamento, perché oggi, a mio avviso, è quella che potremmo definire con l'articolo determinativo, è la questione, perché è la questione dell'identità, che ci sta facendo dividere, discutere e che ogni giorno incontriamo. E in effetti ve lo dico anche perché Simone Weil è stata letta da destra. Ci sono stati, Giancarlo Gaeta è intervenuto anche Tommaso Greco, insomma vari altri, perché Simone Weil, una parte della prima radice, è stato usato in un comizio della destra, qui in Italia è successo, mi pare l'anno scorso, Giancarlo. Volevo evitare di pronunciare. No, ma è innocente, fare chiarezza. Ecco, sì. Queste cose. Le parole non sono mai innocenti. Esatto, ma c'è stata anche questo tipo di utilizzo. Appunto Giancarlo Gaeta è intervenuto Tommaso Greco, è stato importante questo dialogo. Questo tipo di utilizzo comunque da destra c'è stato anche in Francia. E infatti anche in Francia gli studiosi Simone Weil sono insorti, perché in Francia una associazione di estrema proprio destra, di cui adesso non ricordo il nome e ne sono abbastanza contenta, ha tappezzato Parigi di volantini ne parlava Frederick Worms in un convegno, con appunto una frase tratta dalla prima radice di Simone Weil e firmata Simone Weil, per cui in qualche modo c'era uno sdoganamento con un nome di un'ebrea su un pilastro, come dire, dell'immunità in qualche modo, e quindi del razzismo in un certo senso di destra. Cioè è stata una situazione molto complicata. Naturalmente tutto questo si gioca, per questo ovviamente gli studiosi weiliani sono insorti, sull'estrapolazione di una singola frase e sul non citare la frase esattamente successiva. Stiamo parlando non di una frase che c'è alla fine del libro, cioè stiamo parlando di una frase che c'è dopo. E ve la leggo per capire come si può fare, no? La manipolazione, come dire, ecco, oppure, esatto. In effetti Simone Weil scrive: il radicamento è forse il bisogno più importante, più misconosciuto dell'anima umana. È tra i più difficili da definire. Mediante la sua partecipazione reale, attiva e naturale all'esistenza di una collettività che conservi vivi certi tesori del passato e certi presentimenti del futuro, l'essere umano ha una radice. Partecipazione naturale, cioè imposta dal luogo, dalla nascita, dalla professione, dall'ambiente. Detto così è. Ma attenzione però, intanto chi aveva in mente lei in questo momento? Lei stava facendo una battaglia enorme, sulla quale non mi posso soffermare, se volete ci torniamo dopo, contro il colonialismo francese. Cioè, lei ce l'aveva contro la Francia imperiale che andava in Polinesia, lo cita subito dopo, e faceva studiare ai piccoli polinesiani i nostri avi, i galli avevano i capelli biondi e gli occhi azzurri, una cosa del genere, lo dice proprio esplicitamente. Quindi in questo senso lei aveva in mente l'imperialismo francese che sradicava i popoli colonizzati facendo una violenza immensa. Quindi è praticamente l'opposto rispetto a quello che è, come dire, un radicamento identitario nazionale e così via. È il rispetto, in questo caso, dell'alterità della cultura. E infatti, subito dopo, Simone Weil dice, è proprio la stessa pagina, infatti l'avevo messo veramente, ibidem, e ad ogni essere umano occorrono radici multiple. Che cosa vuol dire radici multiple? Vuol dire davvero da ogni parte del mondo, da ogni tipo di cultura, e lei ne è un esempio. Da ogni arte, da ogni manifestazione dello spirito umano. E continua, quindi, ad ogni essere umano occorrono radici multiple. Ha bisogno di ricevere quasi tutta la sua vita morale, intellettuale e spirituale tramite gli ambienti a cui appartiene. Ma gli scambi di influenze, questa è un'altra cosa fondamentale, gli scambi di influenze tra ambienti molto diversi tra loro sono altrettanto indispensabili, quanto il radicamento all'ambito naturale. Un determinato ambiente deve essere influenzato dall'esterno, non per essere arricchito, ma per essere stimolato a rendere più intensa la propria vita. Quindi, quali sono, lo vedete voi stessi, quali sono i lemmi più importanti? Sono radici multiple e deve essere influenzato dall'esterno. Ora, tenuto conto di questo, ogni lettura di tipo tradizionalista, conservatrice e così via di Simone Weil è semplicemente esclusa. È semplicemente esclusa. E tutto questo va contro le strategie dei nostri stati-nazione, parlavamo prima, no? Dei sovranisti. Perché lo Stato-Nazione oggi erige muri, no? Wendy Brown ha parlato di una vera e propria passione per i muri, per costruire... Esatto. E la passione per la costruzione dei muri. Perché? Perché in qualche modo lo Stato-Nazione che si sente in affanno, la cui sovranità è in affanno, va teatralizzata, no? Quindi il muro teatralizza la sovranità dello Stato-Nazione e esclude il diverso. Cioè, se ci pensate, dal momento in cui con la caduta del muro di Berlino pensavamo di trovarci di fronte, no, alla globalizzazione, quanti muri stanno nascendo? Quello tra Israele e Palestina, quello in Messico, quello a est dell'Europa col filo spinato, quello della giungla di Calais, no, il grande muro che divide la Francia dal Regno Unito, che adesso si è autodiviso ancora di più, però vabbè. Ecco, in qualche modo... Questa riflessione sulla prima radice ci ricorda cosa? Ci ricorda che la prima radice è una radice cosmopolita, cosmopolita, è una radice del mondo, è una radice che dovrebbe in qualche modo dirci che noi tutti gli esseri umani, in quanto esseri obbligati, sono esseri umani che appartengono al mondo intero, quindi non una cittadinanza nazionale che è escludente, ma una cittadinanza globale, partendo per esempio, lei parte, ne parla tantissimo alla fine, degli stoici, ma anche del cristianesimo, che viene accusato, i cattolici vengono accusati di essere cattolici di diritto ma non di fatto, no, perché cattolicesimo significa universale, quindi fuori le barriere, no? E allora, con questo mi fermo, ma ci tenevo a dire questo perché davvero è stato fonte di equivoci e perché è la nostra questione. Quindi la prima radice è soprattutto nell'essere in obbligo e nell'aver cura del mondo intero, però, non solo del nostro Stato. Grazie.